tanto ogni tanto sfaso e mi ritrovo in questa condizione. Mi ritrovo in questa condizione. Tanto. Ogni tanto sfaso e mi ritrovo in questa condizione.